La manifestazione di oggi pomeriggio non ci preoccupa, gli insulti ci indignano e sono la testimonianza che sta entrando in campo una componente eversiva neofascista che paradossalmente è alleata col Partito Democratico e lo condiziona troppo fortemente. Comunque è gravissimo l'uso degli insulti che costituisce questa nouvelle vague di questa componente che sta scendendo in campo. Io credo che oggi pomeriggio ne sentiremo di peggio di quello che abbiamo sentito questa mattina.